una scusa. Il pomeriggio siamo noi seduti in mezzo a venerdì, come lancette ferme nell'attesa. Io e te come aquiloni di un vento lontano, siamo noi come due onde di un mare blu in tempesta. Tu ti ricordi il fuoco tra noi, ma se ci pensi non ti bruci mai. Avesse quasi una mania, odiarci non ci stanca mai, sa ci vuole anche una sosta per divenire marinai bruciati tra i pericoli dell'abitudine che il cuore scotta. Io e te, acqua salata in noi stessi anneghiamo, siamo noi come le mani protese a riva rotta. Poi sui salata.